Abbiamo commesso, stiamo commettendo l'errore di non dare la giusta importanza alle parabole, alle similitudini o metafore che troviamo scritte nella parola di Dio. Stiamo commettendo lo stesso errore di certe organizzazioni religiose quando dichiarano spirituali certi episodi storici della scrittura, intendendo con questa parola eventi senza nessun significato. Ogni parabola, ogni allegoria, si riferisce ad episodi veri, perciò anche l'allegoria ha un suo proprio significato. Se dico che sono scosso, non sto sostenendo che il mio fisico è scrollato con una certa violenza, ma che i miei sentimenti interiori sono in agitazione. Se dico che un uomo è freddo, non sto sostenendo che la sua temperatura è sotto zero, ma che ha un animo insensibile nei confronti delle necessità del prossimo. Perciò, noi dobbiamo dare la giusta importanza alle similitudini raccontate da Gesù. Fra queste, vorrei attirare l'attenzione verso quella delle pecore in mezzo ai lupi. Gesù si è espresso così: «Ecco, io vi mando come pecore in mezzo ai lupi. Siate dunque prudenti come serpenti e semplici come colombe». Matteo 10:16. Per comprendere questa similitudine di Gesù dobbiamo collocarla nel suo contesto storico e poi considerare la similitudine della pecora e del lupo alla luce della realtà. Gli ebrei al tempo di Gesù erano principalmente un popolo di pastori che allevavano soprattutto delle pecore. Uno dei predatori del loro bestiame era il lupo. Il lupo è tradizionalmente noto per la sua fame, per l'impeto con il quale assale le greggi e per la strage di pecore che compie, sicché è divenuto simbolo della voracità e insieme della forza avida, della prepotenza contro l'innocenza indifesa. Nessuno vorrebbe essere paragonato al lupo, eppure Gesù apostrofò alcune persone che vivono in preda alla propria cupidigia, prepotenti soprattutto contro coloro che sono indifesi. Dopo una simile diagnosi, il credente ha un sussulto, ma subito si riprende pensando che una simile condanna non lo riguardi. Un figlio di Dio riconosce di non essere perfetto, si rende conto di avere certe mancanze, ma certamente non si rispecchia nel lupo. Malvagio sì, ma non fino a questo punto. Capace di commettere degli errori, ma di essere affamato di cose malvagie, di essere prepotente con i deboli proprio perché sono deboli, questa è una sentenza che proprio non lo riguarda. Per un credente, se ha una certa obiettività e onestà mentale nel riconoscere i pensieri segreti del cuore, il lupo rappresenta l'incredulo, colui che non teme Dio. Al massimo il lupo può rappresentare anche alcuni credenti, ma credenti che nella vita commettono cose turpi, credenti che vivono al margine delle comunità, credenti odiosi, che odiano tutto e tutti. Ma l'analisi di Gesù in merito ai lupi non è questa. Parlando ai 12 discepoli, Gesù disse: «Non andate tra i gentili e non entrate in alcuna città dei samaritani, ma andate piuttosto alle pecore perdute della casa di Israele. Andate e predicate, dicendo: il regno dei cieli è vicino. Guarite gli infermi, mondate i lebbrosi, resuscitate i morti, scacciate i demoni. Gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date. Non fate provvista di oro, né di argento, né di denaro nelle vostre cinture, né di sacca da viaggio, né di due tuniche, né di calzari, né di bastone, perché l'operaio è degno del suo nutrimento. Ora, in qualunque città o villaggio entrate, informatevi se vi sia qualcuno degno e lì rimanete fino alla vostra partenza, e quando entrate nella casa, datele il vostro saluto, e se quella è degna, venga la vostra pace su di essa. Ma, se non è degna, la vostra pace ritorni a voi. E se qualcuno non vi riceve e non ascolta le vostre parole, uscendo da quella casa o da quella città, scuotete la polvere dai vostri piedi. Vi dico in verità che, nel giorno del giudizio, il paese di Sodoma e di Gomorra sarà trattato con più tolleranza di quella città. Ecco, io vi mando come pecore in mezzo ai lupi. Siate dunque prudenti come serpenti e semplici come colombe. Matteo 10:5-16. Gesù non mandò i suoi discepoli ad evangelizzare dei pagani, gente che non conosceva la parola di Dio. Non mandò i suoi apostoli a predicare il regno di Dio a dei nemici come i samaritani, ma li mandò ad annunziare il Vangelo a loro concittadini, a persone religiose, a gente che viveva in mezzo a loro, a persone con le quali essi vivevano in pace. Queste persone religiose per bene che conoscevano la cultura degli apostoli e ne condividevano l'espressione religiosa millenaria, Gesù li chiama lupi, li definisce persone malvagie, voraci, prepotenti. Questa sentenza fa pensare, non tanto per la durezza del giudizio, ma a causa delle persone alle quali è rivolta. E rivolta a persone per bene, come me e come te, a persone che pregavano e che leggevano la parola di Dio. E a queste persone che Gesù invia i suoi discepoli. Non li manda come lupi per contrastare i lupi, ma li manda come pecore. La pecora è un animale principalmente indifeso. Non è vorace, non è predatrice, non ha armi da combattimento come il rinoceronte, né denti forti per sbranare come il leone, e neppure artigli per afferrare la preda come l'avvoltoio, ma per la sua indole dolce, anche se testarda, vive tranquilla, cercando luoghi tranquilli. Con queste caratteristiche Gesù manda i suoi discepoli a predicare il Vangelo ai loro concittadini. Con queste caratteristiche il figlio di Dio deve vivere come pecora tra coloro che esprimono la stessa fede. Il profeta Ezechiele sentenzia in merito al suo popolo e in mezzo al quale viveva, i suoi capi in mezzo ad essa sono come lupi che dilaniano la preda per versare sangue e distruggere anime per realizzare un ingiusto guadagno. Ezechiele 22:27. E il profeta Zaccaria fa coro dicendo: i suoi capi in mezzo a lei sono leoni ruggenti, i suoi giudici sono lupi della sera, che non lasciano alcun osso da rosicchiare per il mattino. Zaccaria 3:3. È inutile quanto dannoso pensare che questa è una realtà ormai dimenticata, perché la sete del potere, la fame insaziabile di onore, sono le piante grasse che nascono abbondanti nella religione. È inutile quanto dannoso pensare che i lupi siano solo fuori dalla comunità nella quale viviamo, perché se non siamo preparati e accorti ne porteremo le conseguenze. L'Apostolo Paolo profetizzò con dolore ai conduttori della Chiesa di Efeso, che lui stesso aveva fondato. Badate dunque a voi stessi e a tutto il gregge in mezzo al quale lo Spirito Santo vi ha costituiti vescovi, per pascere la Chiesa di Dio, che egli ha acquistata col proprio sangue. Infatti io so che dopo la mia partenza entreranno in mezzo a voi dei lupi rapaci, i quali non risparmieranno il gregge, e che tra voi stessi sorgeranno degli uomini che proporranno cose perverse per trascinarsi dietro i discepoli. Atti 20:29. Triste profezia che potrebbe essere applicata ad ogni comunità, perché dove vi sono delle pecore vi abbondano i lupi. E come se ciò non bastasse, anche tra i credenti sorgeranno lupi affamati di onore e gloria, tanto da proporre cose perverse per avere dei discepoli. La vita cristiana non è uno zoo dove i predatori sono separati da quelli deboli, ma prede e predatori vivono in continuo contatto con l'incessante pericolo dei più deboli. Agli occhi pieni di concupiscenza dei lupi, una comunità cristiana offre sempre un abbondante pasto. Gesù non ha mai illuso nessuno, neppure coloro che lo seguivano. Non ha detto ai suoi discepoli che una volta salvati avrebbero risolto i problemi della loro vita, ma ha ordinato di essere prudenti, come serpenti e semplici come colombe. Al credente non è chiesto di accettare a scatola chiusa ogni parola o decisione che viene da un superiore. A chi ha posto fede in Gesù non è chiesto di seguire come un cieco la sua autorità religiosa, ma l'ordine di Gesù è quello di essere prudenti, che vuol dire stare attenti, valutare ogni cosa. È vero che il credente non deve essere maligno, sospettoso del male, ma semplice come una colomba, però non deve neppure essere sprovveduto o, come dice la scrittura, un ingenuo che crede a tutto quel che si dice. Proverbi 14:15. Di nuovo Gesù disse: guardatevi dai falsi profeti, i quali vengono a voi in veste di pecore, ma dentro sono lupi rapaci. Matteo 7:15. L'ordine di Gesù è quello di volgere attorno lo sguardo, di stare guardinghi come quando si attraversa un luogo infestato di tigri o leoni. La vita cristiana è ben altro che una passeggiata spensierata, e ben altro che affidare le proprie responsabilità ai conduttori spirituali. Quando si diventa figli di Dio mediante una fede personale in Cristo, si entra nel recinto del gregge di Cristo e si è protetti dai lupi mondani, ma, ironia della sorte, ogni pecora li deve guardare dalle false pecore che appartengono al gregge perché sono lupi a tutti gli effetti rivestiti come delle pecore. In questo caso l'abito non fa la pecora. E, triste e doloroso verificare ciò che Gesù ha detto, è deprimente e scoraggiante pensare che ci siano tra i grigi delle pecore dei lupi, i quali non si riescono ad identificare subito, ma questo è il pericolo al quale le pecore non possono sottrarsi. Un pericolo che in parte può essere evitato con un poco di accortezza. Un lupo potrà travestirsi da pecora, ma non potrà belare come una pecora. Potrà vivere in mezzo alle pecore, ma non può avere il comportamento docile di una pecora. Il suo parlare e la sua condotta lo tradiranno. Secondo Gesù, il lupo rapisce e disperde le pecore, Giovanni 10:12, cioè a lui interessa solo che i suoi progetti arrivino alla fine. Secondo Gesù, le pecore seguiranno il buon pastore e non seguiranno alcun estraneo, ma fuggiranno lontano da lui, perché non conoscono la voce degli estranei, Giovanni 10:5. Il cristiano è una pecora che vive in mezzo a lupi camuffati, ma mediante la preghiera e la parola di Dio saprà udire la voce del pastore Cristo Gesù. E questo non è poco. Aprile 2005, Ellero.